Cari amici, avendo concluso appena ieri sera la festa di Shavuot, questa incredibile e bella festa del dono della Torah, con tutti i suoi significati profondi, ora entriamo direttamente nello Shabbat. E c'è qualcosa che lega la festa con lo Shabbat, perché questo Shabbat noi leggeremo una parashah con molti temi, una parashah abbastanza lunga, la più lunga della Torah. All'interno di questa parasha tre versetti molto molto noti a tutti quanti: Yevarechecha, Hashem, Veyishmerecha, Ya'er Hashem, eccetera. I versetti della Berachah. HaKadosh Baruch Hu trasmette ad Aaron, il Kohen, il sacerdote, ai suoi figli, l'obbligo, il dovere di benedire Am Israel, di dare al popolo di Israele la Berachah di HaKadosh Baruch Hu. E ci si chiede, ed è una domanda presente anche in antichi Midrashim, per quale motivo ha bisogno HaKadosh Baruch Hu di un tramite attraverso il quale mandare questa Berachah? Perché non ce la può dare direttamente se gliela chiediamo? Cos'è il significato di trasmettere la Berachah attraverso qualcuno che è incaricato a questo compito? Allora, senza approfondire troppo, vorrei condividere con voi una piccola, brevissima storia, un brevissimo aneddoto accaduto nei primi anni dell'esistenza del movimento hassidico. Il grande maestro Rabbi Shneur Zalman, l'autore del Tanya, il fondatore della scuola di pensiero Chabad, era presente in un incontro tra Hasidim, un incontro più di cuore che di mente, un incontro in cui ci si aiutava attraverso delle profonde melodie, attraverso delle parole di incoraggiamento ad affrontare le varie problematiche che ognuno potrebbe affrontare nel servire a Kadosh Baruch Hu, come superare gli ostacoli, le distrazioni. E, durante questo incontro, qualcuno disse: "Guardate che uno di noi, uno di questi Hasidim, è molto malato, fisicamente ha un problema molto complicato e ha chiesto se per favore tutti i presenti potessero dargli una berachà, che lui potesse guarire." Allora i Hasidim si sono guardati un po' l'un l'altro e hanno detto: "Ah, ma cosa significa che noi ti diamo una berachà? Noi siamo mica grandi tzaddikim, a cui uno va, un grande maestro, un grande tzaddik, gli chiede di aiutarli a pregare per lui, a dare una berachah. Vai dai tzaddikim della generazione, chi siamo noi per dare una berachah?" E mentre parlavano di questo, il Rabbi Shneur Zalman, che ho citato prima, si alzò, fece fare silenzio e disse: "Forse vi siete dimenticati un detto che abbiamo sentito dal nostro grande maestro, il Maggid di Mezrich. E lui ha detto che quando ci si incontra e si sta insieme in questi incontri hassidici, si può effettuare in alto qualche cosa che neanche l'angelo Michael può effettuare." In altre parole, il stare insieme con affetto, con rispetto, con cuore, è qualcosa di particolare, qualcosa che apre il cielo alle benedizioni, per le benedizioni. E allora il Rebbe Shneur Zalman disse in quel momento, fece un esempio, disse: "Se ci sono diversi bambini, che la natura del bambino è una natura molto egoista, il bambino pensa solo a se stesso, anzi, ciò che l'altro ha per lui è motivo di gelosia. I bambini non amano dare del proprio agli altri bambini." Ma i genitori che vedono questo tipo di comportamento chiaramente si risentono. Cercano di educare, di disciplinare, di insegnare ai bambini che non è questo un giusto comportamento, specialmente tra fratelli, sorelle, e iniziano a lavorare sulla loro educazione. E poi quando vedono che questa educazione dà frutto, e quindi i bambini iniziano ad apprezzare l'idea della condivisione, dell'altruismo, eccetera, eccetera, è chiaro che il piacere che questo dà e porta ai genitori è qualcosa di molto particolare. Forse il più grande piacere che i genitori possono avere quando vedono che i loro figli si trattano bene, pensano al bene del prossimo. L'Alter Rebbe disse, la stessa cosa è quando HaKadosh Baruch Hu guarda noi. Quando un ebreo vuole bene ad un altro, lo benedice, gli augura tutto il bene che gli può augurare, non è possibile immaginare che piacere questo porta al nostro Padre in cielo, Avinu Malkenu, il nostro Padre in cielo. Qua non solo è un piacere, ma un piacere che fa sì che quando appunto vede che noi ci trattiamo bene l'un l'altro tra di noi, gli fa venire la voglia, tra virgolette, di trattarci bene a noi dall'alto, di mandarci la sua berachà. Ed è questo effettivamente il concetto e l'idea dietro alla birchat Kohanim, la berachà che ci danno i Kohanim. Certo che HaKadosh Baruch Hu ci può dare la sua berachà senza farsi aiutare da nessuno. Ma HaKadosh Baruch Hu sa che forse non sempre siamo così degni della sua berachà. Forse il nostro comportamento può essere migliorato, o forse alcuni comportamenti devono proprio cessare nella nostra vita, nel nostro modo di vivere. Allora, se non siamo degni, se non fossimo degni, come potremmo ricevere la sua berachà? HaKadosh Baruch Hu ci ha fatto un favore, ha creato un sistema secondo il quale un ebreo benedice l'altro. Quando un ebreo benedice l'altro con affetto, di nuovo questo fa sì che lui abbia questo volere, questa voglia di benedirci, anche se non siamo così meritevoli, anche se non fossimo così degni. Infatti nella halakha questa cosa si rispecchia molto fortemente, perché non ci sono tantissime condizioni che fanno sì che un Kohen non potesse dare la berachà. Sono poche le situazioni in cui si dice questo Kohen non può salire in Teva a dare la berachà. Ma una delle condizioni base è che ci sia affetto, che ci sia amore. Un Kohen che odia qualcuno nel pubblico o il pubblico che odia il Kohen, non va bene che si faccia la berachà in quel contesto. Infatti la benedizione che precede la berachà, che dicono i Kohanim, Asher Kiddeshanu Bikdushato Shel Aaron, HaKadosh Baruch Hu ci ha santificato con la santità del Kohen di Aaron e ci ha dato la mitzvah di benedire il suo popolo Israel, si conclude con la parola Be'ahava, con affetto, con amore. Senza l'affetto, senza l'amore, si perde tutto il senso di questa berachà. E per questo un Kohen può essere anche uno che non è necessariamente un grande tzaddik, o uno che forse deve migliorare tanti aspetti del suo comportamento, e va tutto bene, però la berachà, se la fa con affetto, la può fare. E per questo è importante, quando veniamo dal Moed, andiamo verso lo Shabbat, ricordarci che questo sistema esiste perché HaKadosh Baruch Hu potesse avere la scusa, per così dire, di dare a noi la berachà quando vede che noi diamo le berachot l'un l'altro, che noi ci comportiamo con affetto e con amore tra di noi. Allora ricordiamoci, questo non è solamente limitato al momento della berachà, è valido sempre. Shabbat Shalom.